In questa giungla di là, Narcra Radio Roma, emerge la televisione. Sei in punizione. Per questo mese niente computer, niente PlayStation, niente DS, niente PDL, niente PD e niente televisione. E la radio? La radio? Solo Nartra Radio Roma. Solo Narra Radio Roma. Amici e amiche, salve a tutti. Mister Gasperino presenta il 54esimo podcast di Narra Radio Roma. Quattro amici che nello scorso anno hanno deciso di aprire una radio realmente libera, prima di tutto perché è no profit, come potete notare sul nostro blog, secondo perché tratta artisti sotto licenza Creative Commons, una licenza che permette agli stessi artisti di far conoscere i propri prodotti, altrimenti non potrebbero. Quindi una piattaforma di lancio senza avere necessariamente delle case discografiche alle spalle. Non c'è nessuna casa discografica. Le nostre scelte sono completamente, completamente libere. Mister Gasperino, che è il sottoscritto, insieme a Mister Brontolo, Mister Cocotte e Mister Campo, hanno deciso di farvi conoscere la musica Creative Commons. Proprio l'altro giorno mi sono imbattuto in un articolo di un ragazzo che chiedeva un consiglio a un medico in quanto ha dei peli sulle orecchie e chiedeva qual era il sistema migliore per ridurre la crescita degli stessi, che esteticamente erano alquanto brutti. Il medico rispondeva che l'unico rimedio era la luce pulsata IPL oppure il laser. Voi vi chiederete: perché vi sto dicendo questo? Perché è una cifra che vi ripetiamo, che l'unica musica è quella libera e la Creative Commons lo permette. Pertanto questo rimedio potrebbe essere utile per chi ancora non ha capito perché ha i peli che glielo impediscono. Oggi ci troviamo di nuovo di fronte a un esperimento, pertanto il 54esimo podcast lo potremmo chiamare tranquillamente un nuovo podcast. Questo esperimento nasce dall'idea contorta del DJ di turno nel voler unire tre mondi musicali, quello della musica elettronica, quella del pop e quella della musica rock. Entrando appunto nel primo mondo, vi vado a presentare un artista che ho trovato su Free Music Archive. Lui si chiama Minus e da 5 anni invade la scena rumena con musiche che spaziano da melodie quale il Game Boy, il Dub e l'Hip Hop. Lui è Minus e ci andiamo ad ascoltare. Teatro di Vara. Com'è che fai? È facile. Fanno a Pries. È carino, ma. E vieni. E mi fanno male i piedi. E su, vieni, coraggio. Vieni. Mannaggia. Metti da qua. Sei pronto? Dai. When they send you rising low on Broadway, when they send you rising so today. Che sta da fa? Qua c'è gente che dorme, questo è un convitto, non siamo al varietà. Mo ve lo dico per l'ultima volta, piantatela, altrimenti ve caccio via tutte e due. Quella poi la dovete levare, e quattro, va bene? Ma fammo piacere. Che palle questo! Che palle lo dici a tuo padre, intendo? Thank you. He's dancing his way back to me. Fantastico, fantastico, veramente. Minus dalla Romania, estratto da Free Music Archive. Continuiamo con questi suoni, con il mondo della musica elettronica. E la prossima formazione che vado a presentarvi è Kozlov and the Virtual Orchestra, estratto da Jamendo, da un album del 2010 dal titolo Anna. La quinta traccia è New Day e ce l'andiamo ad ascoltare. Рассвет покроет тайны звездной ночи, и сон смели с утра работники двора. И кофе поздравляет с добрым утром, мурлыкает на кухне и продуктах. В автобусе незаспанный кондуктор продаст билет неведомую как роботы с командой в голове. Снуют туда-сюда, сюда, не видя ничего. На перекрестке стоп, командир светофор распределяет трафик, открывая путь. Нам готовить новый день. Какие потрясения мы ожидаем в этот день. Наш головной процессор перезагрузит пыльное вчера. И дома сериалы, а завтра новый день. Завтра новый день. А завтра новый день. La prossima formazione viene dalla Federazione Russa e ci presenta un'ottima musica elettronica. Il nome? Tutto un programma. Si chiamano MMDA, come la famosa droga psicadelica. Ottime qualità sonore. Ve li consiglio. Il brano che ci ascoltiamo è Spring Love, Spring Love, Spring Love, Spring Love. si chiamano Hot Stroke, sono italiani, ci propongono un elettro sperimentale, hanno 6 dischi all'attivo su Jamendo e ci ascoltiamo Attack. Oserei dire che è spettacolare. Estratto da Dogmazic, loro sono i Divine Holocaust, ci presentano un'elettronica hard e il brano sotto la mia voce si intitola Are You Afraid? Il brano sotto la mia voce si intitola Are You Afraid? Il brano sotto la mia voce si intitola Are You Afraid? Yeah. così, commentandoci, scrivendo a Marta Radio, @live.it. Bene, bene, bene, siamo tornati nel nostro podcast, cioè abbiamo affrontato il primo mondo, quello della musica elettronica, per tuffarci ora nel mondo del pop. Devo confessarvi che non è un genere musicale che io amo molto, pertanto ho voluto inserirlo in questo esperimento cercando quei suoni che normalmente mi affascinano nella musica. Un altro problema che ho incontrato è quello che questo podcast l'ho preparato negli ultimi 15 giorni di agosto, dove tutti conosciamo l'afa e il caldo che ha fatto. E per combattere un po' il caldo, ho deciso di bermi un bel tè. Ora do un consiglio a tutti quelli che pensano di poter fare un podcast da qui a poco in futuro. Colgo l'occasione per ricordare a tutti che chiunque volesse può fare un podcast a proprio piacimento, nella propria casa, con il proprio computer. Lo impacchetta, lo spedisce a nartraradio@live.it e state tranquilli che noi lo metteremo in onda. Quindi il primo consiglio è quello di non bere del tè. La prossima volta lo fumo, chissà se va meglio. Non bevete mai del tè, perché quello paralizza in qualche modo la lingua e non ti permette una buona articolazione. Pertanto diventa difficile tirar fuori quello che si vuole dire. Esce in modo un po' innaturale ed ironico. Detto questo, possiamo finalmente tuffarci nel mondo del pop. I brani che ho scelto ricordano qualcosa del mondo del rock o affine. Così il primo gruppo che ci andiamo ad ascoltare lo è estratto da Dogmazit, un mondo veramente fantastico di musica. Il brano si intitola Change Yourself e loro sono i The Velvet Club. Siccome credo che la vita a volte debba essere presa meno seriamente di quello che facciamo, ho deciso di intervallare, appunto, come avete già notato dal troncone precedente, quello della musica elettronica, il lancio con un artista a me molto caro, quale Carlo Verdone. Pertanto, a voi auguro buon ascolto! Un'altra radio Roma. Che gli metta Mir Gemmara? Bacioni. Banale, va. Baci. Va come bacioni, oh. Andiamo più sul semplice, dai. Baci secco, così. No, no, dai, una cosa un pochetto più pensata, dai, più costruita. Tipo? A stronzi. Vabbè, come si fa a fargli capire l'espressione? A con l'H e tante in fondo. Come verrebbe? A stronzi! No, c'è qualcosa che non va, Ivan. No, infatti. Stronzi esclamativo. Oh. Sei così, dai proprio di stronzi, no, non va. Senti, la famo domani che la pensiamo meglio, a me non va bene. Ne mi scoppia la testa. Volevo cambiare zona? A me sta posta mi deprime. Infatti io sta musica non la sento, Eva. Non la sento manch'io e qua non la senti, vuol dire che il posto non c'è sta. Infatti. Troviamo uno meglio. Posto più strano. Ammazzo, questo sì che è un posto. Go to work with one big desire. But my boss said, you are fired. I am perplexed and I don't know what to do. I sleep one night about it, find out if it's true. listened to the radio and heard a tired song. Tired song. And this song he told about a man. About a man. And the man in the song can be me. Can be me. I tried so many years to change all in my life. Gli Alisei sono venti, regolari in direzione e costanti in intensità, della fascia tropicale. Paolo Traversa, di Progetti e Dintorni, che potete trovare su MySpace, ce li ricorda e fa un'analogia tra gli Alisei cavalcati da Cristoforo Colombo per scoprire le nuove terre e i nostri tempi. Buon ascolto con Paolo Traversa. Alisei, Alisei. Mesi di fame e navigazione. Tempeste bonacce, correnti contrarie, vele squarciate, timoni distrutti, uomini pronti a insubordinazione. Tutto sembrava disposto al naufragio, con le tre navi disperse nell'oblio. Ma quella brezza continuava a spirare, era quel vento che segnava la via. A ripensare come era nata una piccola idea che sembrava a tutti sbagliata. Diceva sei pazzo e non serve comunque prendere a ovest la via per le Indie. E Genova zitta restava a guardare come se nulla le potesse fregare di quel suo figlio legato a un destino con quell'idea di cambiare la via. Senti il vento, segui il vento. Ma per fortuna in una terra lontana c'era una donna, una grande sovrana, con una flotta pronta a salvare, ma senza rotta per poter navigare, ripercorrendo con la memoria ogni istante di questa sua storia. Fu nel momento in cui non si arrese che il mare finiva e la terra spuntava, e come il vento della passione quell'uomo discese dall'enorme barcone. Bacio la sabbia di una terra lontana come la mano della sua amata sovrana. Incontaminato, pensando che in India lui fosse arrivato, e con amarezza, ma poi con stupore, comprese subito che non fu un errore. Un mondo nuovo aveva scoperto, tracciando una rotta senza precedenti, tornando in Spagna a portare i suoi doni, aprì un nuovo ciclo di tempi moderni. Una storia ingiusta e riconoscente lo fece sembrare a tutti quanti un perdente, e nel suo tempo non fu mai compreso che quella era la terra di un futuro emergente. Ma col passare del tempo e del mare furono poi altri a conquistare quella terra lontana, ricca di ogni bene, mentre i venti soffiavano in tempesta e dolore. Senti il vento, segui il vento. In quel nuovo mondo, laggiù oltre il mare, col tempo si comprese il suo grande valore. E fu poi così che solo il suo nome la chiamarono Colombia, terra del gran navigatore. Morì condannato per ironia della sorte, in un mondo confuso dalle idee contorte. Sepolto e scomparso senza poi più sapere, ma il suo spirito eterno per sempre aleggia sui mari. Per ogni uomo c'è un proprio destino, legato ad un vento, a un soffio divino. Se vuoi scoprire davvero chi sei, prova a seguire i tuoi Alisei. Federico Manfredi è di Firenze. Ci presenta un pop rock e ci ricorda, con il suo modo di fare musica, che la vita non deve essere presa troppo seriamente. I suoi lavori, all'orlo del demenziale, li trovate su Giamendo. E ci ascoltiamo. Ti ci calerei, ci calerei, ci che calerei. Sono qui per guardarti capirò perché tu non parli. Tu non parli perché parli solo con quelli che hanno i soldi. E continua così e ti butterei in quella vasca di piranha che tant'anni fa ho costruito con amore per te, e ti ci lascerei proprio in fondo al lago, e non chiamerei nessuno perché ti ci calerei. Calerei, ci calerei. E ti ci butterei, na na na na na. Ti ci calerei e ti ci lascerei. Che sono qui, qui a sbirciarti. Tu mi fai morire ogni volta che tu ti muovi. Tu sei bella, dolce e forte, ma solo sempre con quelli che hanno i soldi. E si ridi pure di me. E ti butterei in quella grotta con quegli orsi, come in quel film dove tu ridevi tanto. E ti ci lascerei per tutti gli anni che mi hai illuso, e non chiamerei nessuno perché ti ci chiuderei. Ti ci chiuderei. E ti ci lascerei, na na na na na. Ti ci chiuderei, na na na na na. E ti guarderei sdraiato tra quella poltrona, in quella solita TV, quando con mia madre canto, e ci riderei per tutti gli anni che mi hai deluso, e non chiamerei nessuno perché ti ci lascerei, ti ci lascerei. Ti ci calerei. Ci butterei, na na na na na, e ci girerei intorno, e questa tutto il giorno, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Pescando ancora dall'archivio di Dogmatic, ci andiamo a sentire un gruppo autoprodotto. Sono i Moutier e ci presentano un pop indie. Il brano si intitola Life. E ti ci lascerò. Thank you. ed eccole qua, il loro tormentone estivo è pronto, servito su un piatto d'argento. Si chiamano Millionaire Blonde, li trovate su Giamendo e ci ascoltiamo Analcolico. C'è chi gioca a risico, mille sigarette fumate a metà, discussioni sterili, le tue scuse inutili, un'ora di ritardo e mi chiedi come va. Analcolico e il bicchiere sul tavolo, mi racconti storie parlando al telefono, la metà di un uomo è sedere dall'abito, analcolica, dormo sul tavolo. Dimmi cose che non so, legami al tavolo, scioglimi i capelli, prova a dirmi no. Eppure così semplice non sarò tua complice, né quel soprammobile che sposti come vuoi. Analcolico il bicchiere sul tavolo, ti racconti storie parlando al telefono, sei metà di un uomo, lo vedo dall'abito. Analcolica, ballo sul tavolo. Mentre tu mi parli, io fisso il telefono. Sei metà di un uomo, si vede dall'abito. Analcolica, spengo il microfono. Analcolico, il bicchiere sul tavolo. Ti racconti storie parlando al telefono. La metà di un uomo, si vede dall'abito. Ballo sul tavolo, analcolico, bicchiere sul tavolo. Ti racconti storie parlando al telefono. La metà di un uomo si vede dall'abito. Analcolica, ballo sul tavolo. Salutando la musica pop, entriamo nel mondo del rock. Rock. Rock. Rock. Mi piace l'idea di fare un po' di rumore. Insomma, alziamo un po' di baccano. Del resto qui a Natra Radio Roma ci piace spaziare da un genere a un altro senza punti di riferimento, creando così una mistura tra suoni, parole, chiacchiere, pensieri e deliri. Dicevo che mi affascinava l'idea di fare un po' di rumore e inizierei subito senza troppe parole, lasciando lo sketch a Carlo Verdone, e successivamente ascolteremo il Bianco Coniglio, un gruppo che ho trovato su Dogmatic con un album del 2007 sotto etichetta Tomato, CNI Compagnia Nuove Indie. Ci andiamo ad ascoltare agrodolce, dolce, dolce, dolce, dolce. Pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari. Secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Allora, che... Pronto? Pronto? Aci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea. Un'altra radio. Roma. 5, 4, 3, 2, 1. Sono gli Signals, sono di Bari e ci propongono un bel rumore, formati da Pinto Francesco Paolo alla chitarra e voce, Maiullari Domenico chitarra solista, Marroccoli Francesco basso, Lovicario Davide batteria. Il brano che ci ascoltiamo si intitola Blood and the Angel. We'll be right back. Questo bel rumore mi ha messo addosso una bella agitazione. Insomma, sono tutto un fermento, uno scompiglio. Appunto, la prossima formazione si chiama Scompiglio. La trovate su Giamendo ed è composta da Ivan Gobbo, Patrizio Porri, Enrico Alonso e Paolo Perilli. Sono di Roma e ci presentano un ottimo sound. E dall'album I tempi passano ci sentiamo Giro tondo. Giro tondo. Ancora una volta siamo andati a estrarre un brano da Giamendo, che ringraziamo pubblicamente. Sono italiani e sono un trio di Brescia e ci presentano un buon alternative rock. Dall'album Idolo ci ascoltiamo Cronofobia. Loro sono i Cronofobia. Questo podcast è nato all'insegna della gioia e dell'allegrezza. Un tentativo un po' bizzarro. Spero che vi abbia divertito. Siamo così giunti alla fine e siamo giunti ai saluti. Vi ringrazio per averci seguito fino a questo momento. Invito tutti voi a seguire gli amici dell'Altra Radio Roma, le loro programmazioni, che da settembre partiranno scoppiettanti. Ringrazio il mondo di internet e i siti quali Jamendo, Dogmazic, Free Music Archive e MySpace. Ringrazio tutti gli artisti e vi lascio con un ultimo gruppo che risiede al Settimo Torinese. Esistono dalla metà degli anni 70 ed hanno subito diverse evoluzioni, fino ad arrivare ai giorni nostri con l'attuale formazione. Rino Arminio, basso e voce, Gianni Catalano, batteria, Paolo Garzotto, chitarra, Andrea Rofini, tastiere. Dall'album Terre di Confine ci presentano un progressive a tratti melodico. Io vi saluto e vi lascio con i Sintesi e la loro Sono Io. Sorrisi aneriti dalla stranezza di un momento che non passa mai. Noti che non finiscono, sigarette consumate dal silenzio. Mille contraddizioni, mille motivi per non piangere. Mille immagini che diventano una, lei chissà dov'è. Lei chissà dov'è, lei chissà dov'è. Magari a perdersi come me in questa notte che non passa mai. Mentre immagini in bianco e nero stancamente passano alla TV. Vorrei piangere per il tempo che non ho vissuto. Vorrei piangere per l'amore che non ho dato. Perché la notte è bugiarda, ma sembra tutto più vero. Perché la notte è bastarda, fa sembrare tutto più nero, nero. Vecchie stanche situazioni che ogni giorno si ripetono. Vecchie stanche situazioni che ci piacciono, ma ci uccidono, ci uccidono. Mai. Reazioni esagerate si confondono nel buio della notte e nella nostra solitudine. Nella nostra solitudine. Thank you. se hai qualcosa che vuoi dirci qui, puoi farlo sì, commentandoci, scrivendo a Natta Radio, chiocciola Rai.